8. Ascolta e controlla. 1. Quando telefonerà? Telefonerà appena sarà arrivato in albergo. 2. Pulirete la sala? Sì, puliremo la sala dopo che tutti saranno usciti. 3. Quando riposerai un po'? Riposerò quando avrò sistemato tutto. 4. Quando comincerà la lezione? Comincerà quando gli studenti saranno entrati. 5. Compreranno un regalo? Sì, compreranno un regalo appena avranno ricevuto il bonifico. 6. Che cosa regalerà Bob agli amici? Farà molti regali dopo che sarà diventato ricco. 7. Quando andrai in vacanza? Ci andrò quando avrò guadagnato i soldi necessari.